737 Conserve di ribes e di lampone. Per la conserva di ribes avete la ricetta della gelatina di ribes numero 739 e questa basta. Per la conserva di lampone mettetela al fuoco così naturale, senza fermentazione, e quando avrà bollito una ventina di minuti passatelo dall'ostaccio. Pesatelo così netto dai semi e rimettetelo al fuoco con altrettanto zucchero bianco in polvere, facendolo bollire fino a cottura di conserva che conoscerete con le norme già indicatevi. La conserva di lampone, messa in poca quantità, a me sembra che si presti più d'ogni altra per ripieno ai pasticcini di pasta sfoglia.